Abbiamo cominciato quest'anno con questo tema e lo porteremo avanti perché credo che il Signore vuole invitare ciascuno di noi ad andare avanti insieme, amen? E il Signore ha nuovi territori per te, il meglio nella tua vita è davanti a te, non essere nostalgico, non è dietro di te, non è alla tua destra, alla tua sinistra, è davanti a te. E il Signore ha il meglio per la tua vita e questo è un anno nel quale Lui non ti invita solo a camminare, ma in accordo con quello che abbiamo letto la prima domenica di questo mese, se non hai sentito quel messaggio puoi andare su YouTube, oramai siamo tecnologici, abbiamo pure su YouTube i nostri messaggi, quindi puoi andare lì, cliccare, mi sa che era il 3 gennaio e abbiamo ascoltato questo meraviglioso messaggio portato da una persona meravigliosa, ero io naturalmente, quindi ed era su Ebrei 12 che dice che noi siamo invitati non solo a camminare, ma in accordo con la parola di Dio noi siamo chiamati a correre, tu sei chiamato a correre e a conquistare nuovi territori e per correre devi essere libero, per correre devi essere alleggerito e quindi Ebrei dice con molta chiarezza metti da parte i pesi, metti da parte i peccati perché così potrai correre e conquistare. Il Signore ha in mente per ciascuno di noi nuovi territori di conquista e io lo sento tanto a cuore per le tante situazioni e le tante persone che sto incontrando in queste settimane, per le circostanze che ci stiamo trovando come Chiesa e posso incoraggiarti ancora una volta questa sera, afferra quello per cui sei stato afferrato, come dice l'Apostolo Paolo. Tu sei stato afferrato da Cristo per conquistare nuovi territori. Tu sei stato afferrato da Cristo, meno male che c'è Grazia che è d'accordo, sarà stata la pasta al forno che le ha dato questo entusiasmo. Tu sei stato conquistato perché Dio vuole portarti a nuove conquiste nella tua vita, nella tua anima, nel tuo carattere, nelle tue scelte di vita. Sii modellato da Cristo Gesù perché Lui ha in serbo questo, di non lasciarti come Lui ti ha incontrato. Tu sei chiamato a non rimanere nello stato in cui eri quando hai incontrato Gesù Cristo, ma sei chiamato a camminare. Siamo tutti in un cammino e questa è la cosa meravigliosa della Chiesa, che tu puoi guardare il tuo fratello e la tua sorella e riconoscere che nessuno di noi è arrivato, nessuno di noi è perfetto, ma siamo insieme in un cammino fatto di passi concreti e andiamo avanti come? Insieme. La Bibbia parla della vita come un cammino. Avete notato? Nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento, quando si parla di vita, molto spesso la si attribuisce quale metafora a un cammino. In realtà il Vecchio Testamento è pieno, se pensate al Salmo 119, uno dei salmi più lunghi, parla continuamente del cammino, no? E del fatto che noi abbiamo un sentiero illuminato dalla parola di Dio. Quindi se sei smarrito, se non sai trovare la via nella tua vita, allora sappi che la parola di Dio è proprio quella lampada nel tuo sentiero per farti camminare e farti fare i passi giusti. Questo è quello che il Salmo 119 dice. E poi c'è nel Vecchio Testamento un intero libro dedicato a quello che è stato il cammino, il percorso del popolo di Israele, che è una bellissima storia realmente accaduta, non è una favola e non è un bel film hollywoodiano, è una storia realmente accaduta dove Mosè, il liberatore del popolo di Israele, ha portato dall'Egitto, dalla schiavitù, il popolo di Israele attraverso il deserto nella terra promessa. E l'Esodo è un libro che ho appena finito di rileggere ed è bellissimo perché ti mostra esattamente quello che è il piano di Dio per la tua vita e ti può immedesimare proprio nel popolo di Israele e quanto difficile è a volte questo cammino, però Dio ha prestabilito quel libro per lanciarci un messaggio molto chiaro: anche tu sei in un cammino, anche tu sei chiamato a camminare, a fare passi di fede, a fidarti di colui che è la tua guida, cioè Cristo Gesù. Amen. Il bello è che poi nel Nuovo Testamento questo cammino si trasforma in una corsa. È come se tutto a un tratto nel Nuovo Testamento, essendo venuto Gesù, il passo si fa più veloce. E quindi noi troviamo molto spesso l'Apostolo Paolo che parla di cammino, però poi subito dopo parla ancora di più di corsa, di una gara. perché i tempi sono stretti, il Signore sta per tornare e Dio vuole per te che non fai una passeggiata serena sul corso di Modugno nella tua vita e che non permetti al diavolo di derubarti, di distrarti, di farti fare passi incerti, ma il Signore vuole per te che tu possa fare una corsa, una gara con un premio specifico che alla fine della tua corsa troverai, che è la vita eterna in Cristo Gesù. Gesù parla di cammino e Gesù parla di una via e io voglio leggere con voi quello che lui dice in uno dei passi che probabilmente più conosciamo, che si trova in Matteo 7, dove lui parla. Gesù parla a una folla numerosissima e fa questo che è il sermone sul monte, che credo che la maggior parte di noi conosce. In questo sermone Gesù dice tutto quello che ha da insegnare. Veramente troviamo un concentrato di insegnamenti da parte di Gesù per le persone che lo stavano ascoltando. Il sermone sul monte è la nostra guida per eccellenza. Gesù lì ci istruisce come vivere la nostra relazione con Dio, come pregare, come digiunare, come dipendere da Dio. Ci spiega come vivere la nostra relazione con gli altri, come perdonare, come non giudicare, come vivere l'amore reale incondizionato che lui ci mostra, ci guida in tutti questi insegnamenti e poi verso la fine di questo sermone, di questo bellissimo messaggio che Gesù fa un invito con queste parole che vorrei leggere con voi in Matteo 7 dal versetto 13 e dice: entrate per la porta stretta, perché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione e molti sono quelli che entrano per essa. Stretta invece è la porta, è angusta la via che conduce alla vita e pochi sono quelli che la trovano. Guardate la terminologia che Gesù usa: da una parte la porta è stretta, dall'altra parte invece la porta è larga, da una parte la via è spaziosa e dall'altra la via è angusta. E Dio sta dicendo: la via è la porta che porta vita, è stretta ed è angusta. E non sono belle parole, lo si vede dai vostri volti. La parmigiana tutt'a un tratto ha fatto un effetto diverso nei vostri volti. Però io vorrei che noi comprendessimo che quando Gesù usa parole forti come queste, in questo caso, è proprio perché sta manifestando il suo maggiore amore, quello di un padre premuroso e molto, molto preoccupato per i suoi figli. Perché Gesù usa questa terminologia? Perché è come se andasse ad uno di queste persone nella folla, le scuotesse ad uno e li invitasse a fare una scelta. Entrate per la porta stretta. Prendete la via angusta, non scegliete quello che tutti gli altri scelgono. La via che Gesù descrive per me e per te è una via angusta, è una via tortuosa, è una via stretta, però produce vita ed è questo il cuore di Gesù per te. Questa sera Gesù ti sta dicendo: io ti amo. E io voglio il meglio per la tua vita, io voglio che tu possa vivere vita piena, abbondante, io non voglio che nella tua vita il maligno abbia l'opportunità di derubarti, di distruggerti, di ammazzarti, io non voglio che in te risieda e domini l'amarezza, io non voglio che in te risieda e domini la depressione, io non voglio che in te risieda e domini un'angoscia interiore che è chiamata morte spirituale. Io voglio che dal tuo cuore, dalla parte più intima di te, ci sia quella vita abbondante, una vita che ti permette di sorridere davanti alle circostanze più difficili, una vita abbondante che ti porta a non essere schiacciato dai sentimenti e dalle angosce che questa vita produce, ma di dominarle nel nome di Cristo Gesù. Dio vuole che tu abbia una vita sicura, eterna, sigillata dallo Spirito Santo, che ti permette di godere su questa terra quello che godrai per il resto della tua eternità. Lo Spirito Santo è qui per dirti: ci sono. E insieme possiamo vincere su questa terra e per l'eternità, e tu puoi vivere quella vita straordinaria e soprannaturale che io ho destinato i miei figli a vivere. Ma sii pronto, sii deciso e scegli per la porta stretta. Scegli per la via angusta. Devi fare una scelta. Io credo che il motivo per il quale Gesù ha usato queste parole forti, proprio perché comincia dicendo entrate, con un comando, con un cartello di quelli gialli triangolari che lampeggia e dice entrate, quello che Gesù sta dicendo è fate una scelta. Quello che Gesù sta dicendo è scegliete di scegliere. Perché dico questo? Perché faccio questo gioco di parole? Perché quello che noi leggiamo in questi versi è che Gesù sta dicendo che molti vanno per la via larga, molti entrano per la porta spaziosa. Qual è la caratteristica della via che noi siamo chiamati e abbiamo il privilegio, più che essere chiamati, abbiamo il privilegio di poter vivere? È che è una via che non è comune. Non è la maggior parte delle persone non segue questa via. Non è comune, non è popolare, non è qualcosa che tutti scelgono di intraprendere, perché non tutti scelgono di scegliere. E la maggior parte delle persone si adeguano alla massa. Sapete che una delle influenze più grandi della nostra vita sono le persone attorno a noi, è la società che ci circonda, e anche all'interno della Chiesa molto spesso possiamo essere trascinati da quei molti di cui ci circondiamo. E quindi seguiamo la moltitudine perché, come dice il detto, mal comune mezzo gaudio, no? È come a dire se la maggior parte sbaglia, allora quello sbaglio diventa minore. Ma fatemi dire una cosa questa sera, fratelli e sorelle, amici, anche quando milioni di persone scelgono di seguire una via sbagliata, quella via non diventa tutto a un tratto giusta. Non è la maggioranza che fa testo, ma piuttosto fa testo quella che è la verità che è proclamata da Cristo Gesù. Non seguire la maggioranza nella tua vita, non seguire la folla attorno a te, non seguire quello che i molti dicono, segui il sermone sul monte, segui l'assurdità della parola di Dio, segui le istruzioni illogiche di Cristo Gesù. Qual è l'altra caratteristica di questa via? È che è illogica, non è razionale. Se tu ti trovi davanti a una via a quattro corsie, spianata, ben asfaltata, sei con la tua macchina, con la tua Golf dell'86, no? Che ha quel potenziale di farti arrivare spedito dovunque tu voglia, se hai pazienza, hai fede naturalmente. Se tu sei nella tua buona macchina e ti trovi davanti a questa spianata strada liscia, asfaltata e sgombra, tu la prediligi rispetto a quella viuzza di campagna sdrucciolevole, non asfaltata e piena di curve. Però fino a prova contraria, qualsiasi via che porta in alto è una via angusta. Più in alto ti porta, più è angusta. Vallo a chiedere agli scalatori, vallo a chiedere agli alpinisti. Se vuoi arrivare in cima, non c'è una strada, non c'è un'autostrada a quattro corsie. E Dio vuole per te che tu arrivi in alto, che non rimani in pianura. Dio vuole che tu intraprendi quella strada angusta, perché quella strada angusta ti porterà in alto. È illogica, non è razionale. Fatemelo dire, è proprio così e io lo sperimento ogni nuovo giorno. E tu lo sai che quello che Gesù propone non ha niente di logico, non ha niente di normale, non ha niente di razionale. Quando Gesù dice perdona il tuo fratello 70 volte 7, che in termini contemporanei può essere tradotto perdona il tuo fratello in ogni condizione, per qualsiasi cosa e sempre. Non è facile, è una strada angusta. Quando Gesù dice pregate del continuo, non angustiatevi di nulla, E tu sei portato nella tua angustia, non so se si dice così, nella tua angoscia, a lamentarti, a mormorare, ad arrabbiarti. Quando leggi la parola di Dio, Gesù dice non fare questo, piuttosto prega. È angusta, è difficile. Quando la parola di Dio dice, Gesù dice nel Sermone sul Monte, no? Se il tuo nemico ti dà uno schiaffo sulla guancia, tu porgigli. Ma vi rendete conto quanto è assurda la parola di Dio? Cioè, tu hai un torto, ricevi un torto dal tuo fratello, dalla tua sorella, dalla tua moglie. Silenzio tombale, naturalmente. Da tuo marito, contente sorelle. E la Bibbia ti dice, porgigli anche l'altra. Sii mansueto. Quando la parola di Dio dice... E con un fratello proprio in questi giorni parlavamo di questo verso e ci incoraggiavamo a vicenda. Non guardare la pagliuzza che è nell'occhio dell'altro, guarda la trave che è nel tuo occhio. È angusta quella via, non è facile, è difficile, è più facile, per noi italiani soprattutto, no? Per noi italiani è molto più facile trovare la ragione di ogni nostro problema, di ogni nostra difficoltà, di ogni nostra angoscia nell'altro e mai in noi stessi, no? Allora sarà oggi la politica che ci fa vivere la vita che viviamo e abbiamo modo di lamentarci e guardare la pagliuzza che ci hanno loro nell'occhio. Sarà il nostro datore di lavoro per quello che lui ci dice di fare, ci obbliga di fare, per l'atteggiamento che ha. Sarà nostra moglie, nostro marito, il fratello in chiesa, la sorella in chiesa, il collaboratore, il chi più ne ha più ne metta. È sempre, costantemente, colpa di qualcun altro e noi incentriamo la maggior parte dei nostri pensieri, la nostra maggioranza delle parole e le nostre scelte di vita per quella pagliuzza che vediamo nell'occhio dell'altro e che non sopportiamo, e Gesù ci dice guarda e concentrati sulla trave che è nel tuo occhio, concentrati sul tuo peccato, sul tuo difetto. È angusta, eh? Siete d'accordo con me? Ma quando scegliamo quel tipo di via, allora saliamo in alto, allora conquistiamo territori, allora il nostro carattere viene modellato e assomiglia sempre di più a quello di Gesù. E allora noi raggiungiamo quella mansuetudine, quell'autocontrollo, quella bontà che caratterizzava Gesù su questa terra. E riusciamo ad essere in silenzio anche quando tutti ci stanno giudicando. E riusciamo ad amare anche i nemici più grandi, come Gesù ha fatto, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Fino all'ultimo ha amato ognuno. Gesù ti invita a vivere quel tipo di via. E la parola poi è interessante perché a un certo punto, e lo sappiamo tutti molto molto bene, Gesù va avanti descrivendo la via, quale sua personale caratteristica. Giovanni 14,6, Gesù dice, io sono la via. Lo ripetiamo insieme. Io sono la via. La prima caratteristica, la prima definizione che lui dà delle tre è io sono la via. Io sono la verità, aggiunge, io sono la vita. Però prima di andare a leggere questo passo, anche nell'interezza del brano, anche vedendo che da cosa nasce questa definizione, io voglio ancora soffermarmi sulla porta. Perché in questa descrizione Gesù, e quindi apro una piccola parentesi perché sto parlando di via, però voglio parlare anche di porta, perché Gesù parla di questa porta, è una porta stretta, non è larga. E quando ho dovuto pensare alle porte larghe, ho dovuto pensare a quando eravamo piccoli e andavamo regolarmente ogni anno a visitare i nostri parenti in Olanda e attraversavamo le frontiere. In questo percorso, in questo tragitto, attraversavamo la frontiera dell'Austria e poi quella della Germania e poi quella dell'Olanda, e per noi piccoli era un momento molto molto interessante, no? Si vociava, si aveva paura, perché lo attribuivamo molto, sai, ai film. Ora arrestano papà, scoprono che è un narcotrafficante. Allora, tutte queste immagini, no? Di papà torturato e noi che fermiamo la guardia, no? Tutte queste scene venivano in mente quando attraversavamo le frontiere. E succedeva così, che letteralmente tu venivi fermato a un primo posto di blocco della polizia doganale dell'Italia, poi entravi in un territorio di nessuno e poi dovevi mostrare le tue carte d'identità e passaporti ai poliziotti doganali della nazione entrante. La stessa cosa si ripeteva in Austria, in Germania, in Olanda. Era la parte più divertente del viaggio. Recentemente, qualche anno fa, ero in Germania con Antonio e abbiamo deciso dalla Germania di andare in Olanda, non era distante, e quindi abbiamo preso la macchina e ci siamo messi in autostrada. E avvicinandoci sempre di più alla dogana olandese, abbiamo voluto scattare la foto della dogana. E io mi aspettavo, sapevo che chiaramente sono informato anch'io, sapete, però ecco, non mi aspettavo le guardie, sapevo che l'Europa aveva cambiato i suoi confini, però mi aspettavo un varco un po' più evidente. Noi volevamo fare proprio una foto di quello che era il passaggio dal territorio tedesco a quello olandese. Oh, non ci siamo riusciti. Siamo riusciti a fare una foto improvvisata, sfocata, venuta malissimo, perché non siamo riusciti a determinare il punto nel quale entravamo nella nazione dell'Olanda. Che cosa voglio dire con questo? Che a volte è proprio così nelle nostre vite. Ci sono delle porte gigantesche, che noi attraversiamo. E non ci rendiamo conto, ma entriamo in un territorio nuovo, diverso. Noi con Antonio siamo entrati in una nazione diversa, con leggi diverse, con una lingua diversa, con un modo di fare diverso, una cultura diversa. E così spesso è nelle nostre vite. Noi varchiamo delle soglie di cui non ci rendiamo neanche conto, perché quelle porte sono talmente grandi che non si vedono. E Gesù ci mette in guardia e dice: stai attento a quella porta spaziosa che molti varcano, che molti superano, perché la porta è lì proprio per determinare il passaggio da un ambiente ad un altro. Dovete pensare, immedesimarvi in Gesù. Quando lui insegnava sulle porte, le persone sapevano esattamente di che cosa stesse parlando. Le città erano protette da delle mura spesse e alte. E queste città avevano diverse porte, non solo una. I cittadini di Gerusalemme, ad esempio, sapevano che all'interno delle mura della città erano in un posto sicuro, protetto, sotto la protezione di un esercito. Ma quando tu uscivi dalle porte, tu eri in un posto dove briganti, ladri, qualsiasi altra possibilità, possibile rischio, era presente lì fuori. E la mia domanda a te questa sera è: in quale territorio spirituale ti trovi? Quale porta hai varcato? E in quale territorio ti sei ritrovato, magari senza rendertene conto? Gesù dice: prendi la porta stretta. E qualcuno questa mattina mi faceva riflettere come una porta stretta richiede che tu lasci determinati bagagli e ingombri. E c'è in Gerusalemme proprio una porta in un tempio che per entrarci devi inginocchiarti, ed è proprio bello perché richiede questo gesto. E io credo che Gesù, quando ha proposto questa porta stretta, stesse proprio facendo riferimento a una porta talmente piccola che tu hai bisogno di abbassarti, di inginocchiarti, di umiliarti e di entrare sofferente, facendoti piccolo, però entri in un posto che è protetto, che è sicuro, che è quello che Dio ha in mente per te. Non seguire la maggioranza. Questo è quello che Gesù ci invita a fare. Molti seguono la via larga, molti varcano la soglia della porta larga. Non essere come loro, non essere uno di loro. Si parte della minoranza, però quella minoranza che conquista, che va avanti in territori protetti e che va per quella via che è benedetta da Dio. Voglio concludere con quello che Gesù dice in Giovanni 14, lo voglio leggere dal verso 1. Gesù dice ai suoi discepoli prima di morire: qua stiamo alle ultime battute, agli ultimi discorsi che Gesù sta rivolgendo ai suoi discepoli e dice ai suoi discepoli: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado sapete anche la via. Ora, in queste parole contorte, complicate, da studiare, no? Da meditare, guardate la risposta di Tommaso, no? Un po' abbioccato, forse con lo stomaco pieno della parmigiana del mezzogiorno, non capisce niente e dice a Gesù: ma Signore, noi non sappiamo dove vai, come possiamo sapere la via? E lì la risposta di Gesù, gloriosa, meravigliosa. Gesù dice: io sono la via. Tommaso, io è molto più semplice di quello che tu puoi pensare, puoi immaginare. Io sono la via. Tommaso... momento di suspense. Tommaso è lì perplesso. Tommaso è lì disorientato. Tommaso è lì che doveva essere svegliato dalla tastiera. Abbioccato in questo stato dice: Signore, ma che cosa stai dicendo? Signore, cosa stai dicendo? Di andare a prepararci una dimora, il posto dove vado, poi io vengo e vi porto lì. Signore, dove stai andando? E Signore, come ci stai arrivando? E noi come dovremmo arrivarci là? Signore, dacci qualche indicazione. Fammi capire qual è la strada che devo percorrere, qual è, fai da navigatore, come l'hai fatto finora, perché adesso te ne esci con queste parole? Come facciamo a sapere quella strada? Come sappiamo il percorso che dobbiamo percorrere? E Gesù dice: è molto più semplice, è molto facile. Io sono la via. Io stesso sono quella via. Io sono la via che conduce al Padre, io sono il mezzo attraverso il quale tu puoi raggiungere la perfezione. Io sono quella via che ti permette di salire in alto oltre il tuo carattere, la tua personalità. Io sono quella via che ti permette di non essere quello che sei sempre stato. Io sono la via attraverso la quale tu puoi perdonare. Io sono la via attraverso la quale tu puoi porgere l'altra guancia. Io sono la via che ti permette di guardare alla tua trave, non alla pagliuzza dell'occhio del tuo fratello. Io sono la via, io sono la risposta. Io sono tutto ciò di cui tu hai bisogno. Tutto. Non hai bisogno di nessun altro, non hai bisogno di nessuna istruzione. Tu hai bisogno di me nel tuo cuore. Tu hai bisogno di me nelle tue giornate. Tu hai bisogno di me nella tua quotidianità. Tu hai bisogno di me quando ti svegli, ti alzi la mattina e quando poi ti corichi la sera dopo la lunga giornata che hai avuto. Io sono tutto ciò di cui tu hai bisogno. Io sono la risposta quando sei nel posto di lavoro. Io sono la risposta quando ti trovi nelle circostanze più difficili. Io sono colui che ti permette di mettere in pratica ogni legge e istruzione che ti ho affidato. Io sono colui che ti permette di amare in una maniera incondizionata, perché io sono amore. Qual è il prossimo passo? Qual è la prossima scelta che devi fare? Qual è la cosa difficile che Gesù ti sta chiedendo di fare? Lo so, quando leggiamo la Bibbia ci possiamo perdere in così tante istruzioni che Lui ci dà. Ma in questo periodo, in questo giorno, permettimi di dire così, in questo giorno, qual è l'istruzione che Dio ti sta dando? In questo momento, per quello che stai vivendo, per quello che affronterai domani mattina, qual è il passo che Gesù ti dice: fallo, questo è questo, non ti perdere, è questo il passo. L'ho scritto nero su bianco, è lì per te, l'hai letto e lo senti nel tuo cuore, è questo. E io ti permetto di farlo, io sono la via per farlo. E poi dopo che hai fatto quel passo, tu vai al Signore e dici: ok, qual è il prossimo passo? E il Signore ti dice: ok, hai fatto questo. Brava figliola, bravo figliolo, meraviglioso. Andiamo avanti insieme. Questo è il prossimo passo ora. Questo è il prossimo passo. Vai, fallo. Fallo, il tuo carattere può cambiare, la tua personalità può cambiare, ti puoi lasciare un passo indietro, un passo in avanti, ti puoi lasciare la tua vecchia vita, il tuo vecchio carattere, il tuo vecchio modo di agire, interpretare le situazioni e affrontarle. Fai, questo è ora l'altro passo. E comincia a camminare, e comincia a correre. Fallo, io sono la via, io sono tutto ciò di cui tu hai bisogno per vivere quella pienezza di vita alla quale ti ho destinato, che trovi nel mio sermone sul monte. Non hai bisogno di sentire a destra, a sinistra, scegli di fare quello che io ti istruisco a fare. Lì c'è pace, lì c'è gioia, lì c'è vera conquista. In questi giorni pregavo e dicevo: Signore, qual è il mio prossimo passo? Il Signore mi ha parlato dicendo: sai, il migliore indicatore nella tua vita che ti dimostra che stai seguendo me, che sei nella mia vita, è il tuo amore per gli altri. Lo ripeto perché il Signore me l'ha detto così chiaramente, l'ho dovuto segnare sul mio diario. Il migliore indicatore che tu stai seguendo me non è quale conquista fai eclatante, quale messaggio meraviglioso predichi alla Chiesa, quale parole belle che ti prepari nel dire, quale miracolo. Il migliore indicatore, Mirko, nella tua vita, che dimostra che mi stai seguendo, che io sono la tua vita, che io sono la tua via, e quanto tu ami il tuo fratello, quanto tu ami la tua sorella, quanto tu ami il tuo prossimo, proprio quello che non sopporti, proprio quello che col quale non vuoi avere niente a che fare. Quello è il migliore indicatore di quanto stai seguendo me. Questo vale per tutti noi, ma forse il Signore a te sta dicendo altro. Vai, leggi da Matteo 5, leggi il sermone sul monte. Forse il Signore ti sta chiedendo di digiunare, di pregare, di avere più intimità con Lui. O ti sta chiedendo di intervenire contro quelle preoccupazioni della tua vita che stanno mettendo ansia in te. Anche questo c'è nel sermone sul monte. Qual è il prossimo passo che il Signore ti sta chiedendo di fare? Il mio invito a te è: fallo. Gesù è la via ed è tutto ciò che tu hai bisogno per poter vivere quella vita piena. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo vivere un tempo ancora di adorazione, di preghiera, un tempo nel quale tu puoi decidere di allinearti con quella che è la volontà di Dio e fare quella preghiera che Gesù ci ha insegnato: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come fatta in cielo. Che tu possa fare quella scelta, quel passo coraggioso e prendere la strada angusta, inginocchiarti per passare attraverso la porta stretta. Vogliamo pregare, io voglio pregare per ogni persona qui in questo luogo. Se senti che il Signore ha parlato al tuo cuore, allora ti chiedo, alza le tue mani in segno di arresa davanti a Lui e vogliamo poi adorare cantando questo meraviglioso canto che è: Gesù, sii il centro. E lo vogliamo confessare con tutto il nostro cuore. Sì, Gesù, noi siamo qui per confessare il fatto che noi desideriamo di metterti al centro nelle nostre vite. Noi riconosciamo che tu sei la via, tu sei la verità, tu sei la vita, tu sei tutto ciò di cui noi abbiamo bisogno. E abbiamo bisogno di te, Signore Gesù, abbiamo disperato bisogno di te. Gesù, abbiamo bisogno del tuo carattere, della tua personalità, dei tuoi comandamenti, che possano non solo essere attivate esteriormente, ma che possano dimorare interiormente nel nostro cuore e dominare i nostri sentimenti, le nostre scelte, i nostri pensieri, che la nostra bocca possa essere mossa da quello che tu ci chiedi di dire, di fare, che le nostre mani si possano muovere per quello che tu ci chiedi di fare, di servire. Nel nome tuo, Gesù, io prego per ogni persona che ha le mani arrese, alzate verso di te in questo momento. Vuoi tu essere la loro via? Vuoi tu essere la loro completezza? Vuoi tu essere la loro forza per fare quel passo? Per fare quel passo che tu, Spirito Santo, hai mostrato a loro questa sera. Dai a loro forza e coraggio di farlo. Dai loro forza e coraggio di vivere quell'amore pieno. Dai loro forza e coraggio, dai noi forza e coraggio di impersonare il tuo carattere, la tua persona. Spirito Santo, facciamo appello alla tua potenza. Scendi in mezzo a noi, fortificaci, potenziaci per vivere quella pienezza di vita alla quale ci hai destinati. Grazie Gesù, a te la gloria e l'onore.